E per quanto riguarda l'inizio di questa trasmissione, parleremo della Women's Gathering 2016. Se leggiamo il loro blog, incontro femminista europea, We Are the Revolution. Che potete fare di meglio nella vostra settimana dal 24 al 30 luglio 2016, a parte essere circondate da 300 donne per un raduno femminista? Voi dovete riservare le date, pensare che a quel momento là sarete in Francia per questo incontro femminista. Fra un po', fra qualche minuto, ci mettiamo in contatto con una delle organizzatrici per dire un po' di più. Io direi che questo sarà un incontro che si svolgerà in un ecodomain, dunque un posto tipo ecovillaggio di 5 ettari in Normandia, che si può raggiungere con una stazione, ma anche con l'autostrada, che c'è anche un aeroporto, e tutto previsto per fare in Normandia, dunque nord-ovest della Francia. Ci sarà un campeggio, ma anche camere, e ci sarà un lago, e ci sarà anche, e lo tengo per la compagna con chi parleremo, un programma politico ben costruito, e alla lettura del loro blog c'è solo la voglia di andare. Da memoria, io l'ultimo incontro europeo che è stata nel 2000 9 a Vienna. Eravamo una 300 femministe attiviste venute da molte parti di Europa, e quando si parla di Europa, e si vedrà anche con loro, è veramente un'Europa molto molto larga, niente da fare a vedere con l'Unione Europea. E un po' di musica al tempo di metterci in contatto con loro. Pronto. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. C'est parfait. Alors, buonasera. La prima domanda che ti farei è, allora, come è arrivata, come è venuta questa idea e chi siete? Comment ça vous est venu et qui vous êtes? Alors, en fait, nous, on s'est constitué en collectif. Donc, on est des féministes de différents pays. Donc, il y a la France, mais aussi... on est d'Algérie, de Serbie, d'Allemagne, d'Angleterre, et une membre d'Australie et du Kenya même. Alors, Donc on s'est rendu. Mais devo traduire. Oui. Alors noi ci siamo messe, abbiamo costruito un collettivo, siamo delle femministe che provengono da diversi paesi, c'è la Francia, l'Algeria, la Serbia, ma anche il Kenya, l'Inghilterra, la Germania, il Belgio, anche una dell'Australia, sì. Et en fait, on a eu l'idée de faire ce rassemblement en l'été 2014, parce que certaines d'entre nous étions allées dans un rassemblement, dans une rencontre féministe radicale qui avait duré un week-end en Écosse. Et en fait, suite à cela, on s'est dit, mais il nous fallait quelque chose de plus long, parce qu'un week-end, c'était pas suffisant et qu'il fallait aussi qu'on se rencontre entre féministes et lesbiennes et féministes radicales de différents pays d'Europe et d'Afrique du Nord, parce qu'on se connaît très peu. Garde ta frase. Dunque, noi ci siamo incontrati infatti a un incontro l'estate scorso, 2014, in Scozia. C'era un weekend di incontro di femministe radicali e noi ci siamo ritrovate là e ci siamo detto che era veramente importante di fare questo incontro, ma che un weekend non bastava, e dunque abbiamo pensato a un weekend più lungo per approfondire. E per approfondire quoi? En fait, pour approfondir les thématiques qui sont importantes pour les femmes et les féministes, et qu'on n'a jamais assez de temps d'aborder longtemps. Et aussi pour aller plus loin et puis pour permettre des vrais débats entre féministes de différents pays et pas juste sous le format de conférences entre train d'écouter toujours les mêmes personnes Allora l'idea è di, infatti l'avevo anche detto che per loro è anche importante di incontrarci tra femministe della Francia ma anche dell'Africa del Nord, perché ci conosciamo poche finalmente, approfondire, era per approfondire alcune tematiche prendere il tempo di costruire dibattiti intorno a alcune tematiche, ma e non fare al di fuori di queste cose che possono essere dei seminari in cui sono sempre le stesse che vengono a dire a proporre l'analisi e dunque di condividere un'analisi. Allora on peut parler des thématiques. Oui. Parliamo dunque di queste tematiche. Sono previste tre giornate con tre tematiche. Donc on a prévu cinq jours avec cinq thématiques. Le tematiche saranno per un giorno intero si svolgerà dibattiti intorno a una tematica. Ci sarà anche discussioni in piccoli gruppi e discussioni e restituzioni in grandi gruppi. Questo, no? Donc il y aura des petits groupes et des grands groupes. Oui. E la prima tematica è eterosessualità nel patriarcato. Mm-hmm. Vuoi sviluppare? Tu veux développer un peu? Qu'on a voulu, ce dont on voudrait, les discussions qu'on voudrait ouvrir sur ce thème, C'est vraiment revenir aussi un peu aux bases des analyses féministes radicales et lesbiennes sur l'hétérosexualité auxquelles on a peu accès aujourd'hui. Perché vogliamo affrontare questa tematica e perché vogliamo ritrovare un po' le basi di analisi di femminismo, del femminismo radicale su l'eterosessualità. Mm-hmm. Ouais, donc c'est-à-dire de comprendre l'hétérosexualité comme une institution, l'institution principale d'oppression des femmes. Et au sein de cette hétérosexualité, au centre de cette hétérosexualité, le coït, les violences sexuelles et puis le coït obligatoire. Et ces violences comme étant vraiment au cœur de l'organisation du patriarcat, quoi. Dunque, l'idea è di intendere l'eterosessualità come una cosa centrale nel patriarcato, una cosa centrale in cui comunque si svolge anche le violenze. Di ritornare a capire come questa centralità dell'eterosessualità obbligatoria e del coito obbligatorio viene come una base importante, se non principale, della struttura del patriarcato. Penso che tutti capiamo bene questa cosa-là. La seconda tematica, lesbianismo e femminismo, quale alternativa alla coppia patriarcale? Ouais, donc en fait là l'idée c'était de réfléchir sur ce que pouvait être un lesbianisme féministe déjà. C'est quoi une sexualité féministe entre femmes? Puis enfin il y a des femmes déjà qui se posent la question, est-ce que c'est possible ou si c'est possible comment, enfin là vraiment déjà enfin on voudrait ouvrir en fait la discussion pour pouvoir en parler entre femmes et puis entre lesbiennes, parler de la sexualité lesbienne et comment on peut faire pour éviter ou de retomber toujours dans le modèle patriarcal, hétérosexuel, de domination, de dépendance émotionnelle, de contrôle sur l'autre et tout ça. Allora, l'idea è di parlare, di aprire il dibattito e le discussioni intorno di che cosa è una sessualità tra donne. E la cosa anche di vedere come in questa relazione tra donne si può uscire dei modelli che sono imposti dall'eterosessualità o dal patriarcato e che impongono un certo tipo di dipendenza affettiva, di dominazione. E vedo il blog come possiamo evitare l'alienazione, la dominazione, la subordinazione che sono il proprio dei modelli delle coppie patriarcali. Molto interessante. La tematica del terzo giorno sarà antirassismo di un punto di vista femminista. Ouais, donc en fait là cette thématique elle est partie de notre constat que d'un côté il y avait vraiment très peu de choses, très peu de pratiques et de théories visibles sur l'antiracisme d'un point de vue féministe radical, et que très souvent le discours antiraciste était monopolisé par le discours de gauche, des hommes de gauche androcentrés dans les milieux queer ou dans les milieux de tout milieu de gauche. Et donc en fait, je vous laisse traduire. E dunque questa tematica viene dal fatto che abbiamo constatato che c'è poco teoria femminista dell'antirassismo. In generale è una tematica che è monopolizzata da un certo ambito di sinistra o ambito queer. E per questa cosa vogliamo aprire questa tematica. Et donc on pensait que c'était vraiment important de réfléchir sur comment développer un antiracisme qui soit féministe et centré sur les expériences et le vécu des femmes. Vogliamo sviluppare, sì, sviluppare un antirassismo femminista che potrebbe essere centrata sulle esperienze e sui vissuti delle donne. E che c'était urgent en fait de discuter entre nous sur comprendre l'imbrication des différentes formes d'oppression du point de vue des femmes et aussi comment éviter les pièges de l'antiracisme des milieux de gauche. Enfin, voilà. Comment, d'un côté, développer la solidarité entre femmes et l'antiracisme féministe, et de l'autre côté, se prémunir contre... Voilà. C'est comme, dans la question de l'antiracisme, sviluppare delle strategie di solidarietà tra donne. E infatti dice di evitare le trappole dell'antirassismo e degli ambiti di sinistra che sono centrati sugli uomini e che spesso distruggono la solidarietà tra donne. Tutto questo in un giorno. Poi abbiamo per il quarto giorno impatti della violenza maschile e psicotrauma nelle nostre relazioni tra femministe. Ouais, en fait, là l'idée c'était d'utiliser les connaissances sur les psychotraumas et les connaissances sur les effets des violences de la violence masculine sur les femmes. Pour comprendre comment ça affecte nous nos espaces féministes entre femmes. Dunque l'idea è di utilizzare le conoscenze che abbiamo e sulla psicotrauma e su gli effetti della violenza commessi dagli uomini sulle donne per vedere come questa cosa gioca, influenza, si ritrova tra noi quando ci incontriamo tra femministe. Et en fait, l'idée derrière ça, d'essayer de réfléchir sur comment créer des espaces qui respectent les urgences et les blocages ou qui sont liés au psychotrauma et les cheminements de prise de conscience des unes et des autres, et réfléchir à comment créer des espaces sécurisés et sécurisants pour les femmes. E dunque anche di come fare per costruire dei spazi in cui c'è il rispetto anche dei blocchi del fatto che le strade di coscienza per uscire dalla violenza siano rispettati, come fare in modo che questi spazi di trasmissione femminista e di prese di coscienza siano sicuri e rispettuosi. E il quinto giorno sarà dedicato a ecofeminismo e autonomia delle donne. Oui, donc là encore on trouvait que c'était un point essentiel à développer parce que tout simplement il y a aussi très peu de réseaux et de pratiques féministes, écoféministes, et donc là voilà, on voudrait réfléchir sur comment développer des pratiques et des réseaux écoféministes, quel modèle on peut chercher pour les alternatives, même où commencer. Enfin, Sì. Anche lì troviamo che una tematica centrale, perché vogliamo capire come ci sono poche rete di ecofemminismo e pochi spazi per sull'ecofemminismo, e dunque vogliamo vedere come costruire questi spazi, perché è centrale. Nel blog è scritto distruzione del pianeta dai uomini, da dove iniziare, quali sono le alternative, a quale possiamo pensare, come proteggere l'ambito contro la distruzione maschile quando siamo femministe. E dunque Oui, juste pour conclure sur l'écoféminisme, on pense que c'est important en fait de faire le lien entre la destruction de la planète et la haine de la vie qu'ont les hommes et la violence masculine contre les femmes et le patriarcat, quoi. Pensiamo che è molto importante di fare i legami tra la distruzione della pianeta e l'odio contro la vita, la violenza contro le donne e il patriarcato. Passiamo adesso a come sarà organizzata questo incontro. Prima volevo dire che una cosa molto importante e interessante in questo blog è che per ognuna delle tematiche si propone alcuni testi. Adrian Rich sulla prima tematica, Andrea Dworkin sul lesbianismo, la pagina di Afrofem sull'antirassismo, e poi alcune cose che conosco di meno, che sono Muriel Salmon sulle violenze, e anche altre. C'è una bibliografia di testi che possono essere proprio a entrare dentro questi dibattiti. Je ne traduis pas, je pense que tu as compris que je parlais des textes que vous avez proposés. Più o meno questo incontro sarà autogestita. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on peut dire que ça elle sera assez autogérée, cette rencontre, dans le sens, par exemple, matériel du terme? L'organisation de la rencontre en amont, elle est gérée par le collectif que nous sommes. Sur place, en fait, il y a donc les femmes participeront aux tâches du rassemblement, comme la cuisine, le nettoyage. Ce sera divisé en, je sais pas comment on peut dire. Chaque femme contribuera et participera en fait à la gestion du lieu sur place dans le rassemblement. Ovviamente noi organizziamo l'incontro, prendiamo in mano tutta l'organizzazione, ma le donne che vengono, faremo un'organizzazione in modo che tutte le donne che ci sono saranno lì anche a aiutare, a essere parte dell'organizzazione della vita comune, come cucinare, pulire, accogliere. Et aussi être active dans les débats, et anche essere attive nei dibattiti. Oui, parce que en fait on veut organiser les choses pendant le rassemblement de sorte à ce que en fait les ateliers toutes les femmes puissent participer et co-créer du savoir et des pratiques ou des idées ou même des choses artistiques. Et que vraiment, on veut tout faire en sorte pour que ce soit pas une hiérarchie verticale de certaines personnes qui enseignent le savoir à d'autres et qui l'imposent, et que c'est comme ça qu'il faut croire et voir les choses. Noi vogliamo fare tutto in modo che questa organizzazione non sia un'organizzazione gerarchica, che è verticale e che tutte possono imparare da tutte, che non è che, cioè, vogliamo proprio discutere questa idea che una lo sa e le altre imparano, possiamo imparare tutte con tutte, e ci saranno anche dei workshop, delle cose di arte, sportivi, con musica. E tutto questo, dunque, io continuo finisco sulle cose pratiche. Si chiederà 50 euro per l'incontro a chi verrà. Est-ce que vous avez déjà décidé quand est-ce qu'il faut s'inscrire et les langues? Avete deciso la cosa per l'iscrizione e le lingue? Alors pour les inscriptions, des formulaires d'inscription normalement seront prêts à partir du mois de mars. Donc tout pourra se faire normalement sur le site en ligne, sur le blog. Et pour les langues, on a créé une commission traduction pour l'instant, mais alors ce qu'on aimerait dans l'idéal, c'est que même les femmes, que chaque femme, quelle que soit sa langue, puisse participer. Après, pour l'instant, on s'est tenu à deux langues, pour garantir deux langues, et puis ensuite on va, donc l'anglais et le français. Et ensuite, pour tout ce qui est des autres langues, on va faire tout notre possible pour que ce soit possible aussi, donc comme l'allemand, l'espagnol, l'italien. Mais il y a déjà tellement de femmes qui ont proposé pour des traductions, donc a priori... Ça ira. On devrait pouvoir se débrouiller. Alors, per l'iscrizione, le formulari, le schede di iscrizione saranno sul sito a partire di marzo, e dunque si potrà fare tutto online. E per quanto riguarda la traduzione, noi per adesso abbiamo assicurato il francese e l'inglese, ma abbiamo una grande volontà comunque che tutte le donne, qualche siano la loro lingua, possano partecipare, e cioè, almeno il tedesco, l'italiano, lo spagnolo ci saranno, e comunque tante donne ci sono già proposte per fare traduzione, dunque su questa cosa siamo fiduciose. Anna, se non hai niente da aggiungere, ti ringrazio. Se t'as rien à ajouter, je te remercie. Nous te remercions. Merci. On aura sans doute l'occasion de continuer à suivre cette rencontre, en tout cas un peu avant et pendant certainement, et beaucoup après, et de retransmettre ce qui s'est passé. Donc io la saluto, dico che comunque questo incontro la seguiremo prima, dentro, durante e dopo. E ricordo dico che la mail, le blog è womensgathering2016.wordpress.com. ritrovate comunque queste informazioni sul blog di MFLA. Merci beaucoup, Anne. Merci à vous. À bientôt. Merci beaucoup pour votre intérêt et à très bientôt. Et grazie per il vostro interesse, e a presto.